English Bit di Giulia Crivelli. Rescue. Alitalia in crisis after rescue plan is rejected. Alitalia in crisi dopo che il piano di salvataggio è stato respinto. L'agenzia di stampa Reuters titolava così uno dei tanti servizi dedicati alla nostra ex compagnia di bandiera. La parola che ci interessa è rescue, salvataggio. We had given up hope of rescue. Avevamo rinunciato, to give up, a sperare in un salvataggio. A wealthy benefactor came to the rescue with a generous donation. Un ricco benefattore corse in loro salvataggio con una donazione generosa. Mountain Rescue Team sono le squadre di soccorso alpino, diciamo in italiano. 10 fishermen in a daring sea rescue. 3 pescatori salvati durante una rischiosa operazione di salvataggio in mare. To rescue è anche verbo, regolare. To rescue, rescued, rescued. He rescued a child from drowning. Salvò un bambino che stava annegando. The house was rescued from demolition. La casa fu salvata dalla demolizione. You rescued me from an embarrassing situation. Mi hai salvata da una situazione imbarazzante. They were eventually rescued by helicopter. Alla fine furono salvati da un elicottero. E attenzione a eventually, uno dei nostri false friends. Non significa eventualmente, bensì alla fine. Rescue worker è una persona che lavora nel settore dei soccorsi e rescue dog è il cane che fa lo stesso tipo di lavoro, anche se non è pagato, verrebbe da dire. Un altro titolo dell'agenzia Reuters dedicato all'Italia era il seguente: Lufthansa CFO says he's not interested in buying Alitalia. Il CFO, che sta per Chief Financial Officer di Lufthansa, dice di non essere interessato all'acquisto di Alitalia. Notiamo l'uso del verbo to be interested, regolare, che però deve essere sempre seguito dalla preposizione in. Si può utilizzare anche il suo contrario: he is completely uninterested in politics. È completamente disinteressato la politica. Poi c'è l'aggettivo interesting. The food was interesting and nice to look at. Il cibo era interessante e bello da vedere. It would be interesting to know what he really believed. Sarebbe interessante sapere cosa davvero gli interessi. Come tutti gli aggettivi lunghi, ne esiste il comparativo relativo e assoluto, ma aggiungendo more and most. You're more interested in soccer than me. Sei più interessato al calcio di quanto non accada a me. It's the most interesting movie I've ever seen. È il film più interessante che io abbia mai visto.